Ci sono macchine nascoste, e però nascoste male, e le vedi dondolare al ritmo di chi è lì dentro per potersi consolare godendo sui clacson fra i fantasmi di Elvis. Ci sono nuvole in certe camere e meno ombrelli di quel che pensi. Lo sapete cosa è in testa il mago Walter? Quando il trucco gli riesce non pensa più a niente. I ragazzi sono in giro e certo alcuni sono in sala giochi, e l'odore dei fossi forse lo riconoscono in pochi. E le senti le vene piene di ciò che sei, e ti attacchi alla vita che hai. Leggero nel vestito migliore, senza andata né ritorno, senza destinazione. Leggero nel vestito migliore, nella testa un po' di sole ed in bocca una canzone. Passerà la banda, cosa suono fuori moda, cosa suono un giorno un po' pesante, un giorno invece troppo leggero, mentre chi si sbatte perché le urla la vena. Pensi che sei fortunato e ti è mancato proprio solo un pelo, e ti vedi con una che fa il tuo stesso giro, e ti senti il diritto di sentirti leggero. C'è qualcuno che urla per un addio al celibato, per una botta di vita con una troia affittata. E le senti le vene piene di ciò che sei, e ti attacchi alla vita che hai. Leggero nel vestito migliore, senza andata né ritorno, senza destinazione. Leggero nel vestito migliore, sulla testa un po' di sole ed in bocca una canzone.